sono delle anomalie di mercato che ogni tanto insomma ci risultano, ci vengono fatte o ci vengono segnalate. Questo noi vogliamo solo accentuare appunto l'attenzione su queste cose, queste storture di mercato che possono creare degli imbarazzi, tra le quali anche l'acquisizione di aziende o iprevalutate, oppure anche addirittura se non proprio di aziende, proprio sistemi commerciali che sono fuori dalle regole di mercato. Assolutamente. Ecco, le faccio una domanda magari scontata, retorica, però fino a pochi anni fa non era così scontata e così retorica la sensibilità delle imprese sane nei confronti della pervasività delle mafie. E quindi le chiedo questo. Confindustria Sicilia prima, segnatamente Caltanissetta, poi Confindustria Sicilia, poi Confindustria Nazionale hanno detto chiaro e tondo fuori da Confindustria chi paga il pizzo, chi si piega a regole mafiose. Ecco, Confindustria Liguria al suo interno ha la stessa forza, la stessa volontà, oppure non ce n'è motivo perché, ringraziando Dio, magari il vostro tessuto anche associativo è sano, il vostro tessuto imprenditoriale è sempre tenuto d'occhio e vigile e quindi non è permeabile, diciamo così, alle infiltrazioni. Ma probabilmente sono realtà differenti. Credo che il sistema criminale, il sistema invasivo criminale che esiste, esiste purtroppo tuttora in Sicilia o in altre regioni del sud, sia un po' diverso dal nostro. Certo. Cioè noi problemi legati al pizzo, perlomeno per quello che concerne le aziende delle insomma dimensionate per essere aziende legate a Confindustria, cioè non ne abbiamo segnale. E questo è già importantissimo. Ne abbiamo segnale, però casomai ci sono, adotteremo anche noi delle regole per cui non solo per questo motivo ci possa essere l'allontanamento dall'associazione, ma anche altre motivazioni sempre legate, sempre coerenti con quello che noi andiamo cercando. Con l'etica e la legalità.